Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti da Gegè Telesforo, questo è il soundcheck, la prova del suono di Radio 24, appuntamento numero 209 in compagnia del mio prezioso collaboratore e comunicatore d'altri tempi, Francesco Tromba. Bentornato al soundcheck, Francesco. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto ti vorrei ringraziare per la bellissima puntata che hai coniato ieri, visto che sei responsabile del repertorio in italiano, hai avuto una bellissima idea: celebrare due mostri sacri della canzone italiana come Pino Daniele e Lucio Dalla. È stato un piacere poterli ricordare e poter ricordare la loro musica che ci ha lasciato così tanto nel corso degli anni. E io ti ringrazio anche a nome dei radioascoltatori di Radio 24 che hanno inviato numerosissime email al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Ma oggi non parleremo di canzone d'autore italiana, bensì ti faccio fare un salto nel folklore americano, proprio con American Folk Music. E per quale motivo? Come per quale motivo? Perché anche in quel genere ci sono rappresentanti importanti, eccezionali talenti, non solo come cantanti ma come musicisti. E poi c'è un grandissimo ritorno. Devo dire però che il mio rapporto con la musica folk non è eccezionale. Ho capito, ma tu da appassionato di musica devi ascoltare di tutto, che quello che faccio io quotidianamente, e proprio in questo genere ho scoperto dei talenti e dei musicisti pazzeschi. Bah, sono un po' scettico, però vediamo che cosa, sentiamo essere, che cosa mi propone. Non devi essere scettico, perché intanto il termine folk music che cosa ti fa venire in mente? Un po' di noia. No, assolutamente, è la musica della tradizione, quindi un insieme di country music, di bluegrass e quindi di American folk music, ma nella sua evoluzione, perché ascolteremo artisti contemporanei che celebrano quindi il passato della musica americana, che non è il jazz, non è l'R&B, non è il soul, ma la musica dei pionieri, quindi le praterie, ecco. Quindi rapportandolo al panorama italiano. Ti faccio fare una bella cavalcata nelle praterie sconfinate degli Stati Uniti d'America. Va bene, dai, accetto la proposta. Allora, vorrei partire presentandoti un disco appena pubblicato, è bellissimo. Tra l'altro questa artista approda già da un po' a una etichetta importantissima come la Nonesuch, che da sempre pubblica dischi di grandissima qualità. È anche un artista che ha vinto qualche anno fa il Grammy Award per aver realizzato il disco di riferimento del genere con una band chiamata Carolina Chocolate Drops. Hai capito di chi ti sto parlando? Di Rhiannon Giddens. Leggo. Brava, l'hai letto. Guarda che bella ragazza. Beh, sì, esteticamente un merito. Dunque, Rhiannon Giddens non è solo una bella ragazza, ma una bravissima cantante e anche una bravissima musicista. Suona il violino benissimo, il banjo, la chitarra, quindi strumenti a plettro, e viene fuori la signorina con un album nuovissimo intitolato Tomorrow is My Turn. Però ti aggiungo, fra le informazioni, che questo disco è stato prodotto da un mostro sacro della discografia internazionale come T-Bone Burnett, e questo nome sicuramente lo conosci. Eh sì, lo conosco abbastanza bene. Oltre ad essere il compositore di diverse colonne sonore, tra cui ricordiamo una delle più recenti è la colonna sonora della serie TV True Detective, per dire. Esatto, True Detective. Ha vinto anche diversi premi, ha vinto anche un premio Oscar. Ha vinto anche l'Oscar e poi ha prodotto tantissimi artisti. Sì, ricordi qualche nome? Elvis Costello, ecco. Anche sua moglie Diana Krall. Sì, mi sa che ha anche avuto una storia con Diana Krall. No, credo con Elvis, la moglie di Elvis Costello. Di Elvis Costello, sì. Quindi non T-Bone Burnett. No, Elvis Costello, ma mi sa che sono ancora insieme. Vabbè, ma non ci interessa. Sì, ma perché mi fai dire? Andiamo avanti invece con Rhiannon Giddens, nuovo album intitolato Tomorrow is My Turn. Vorrei proporvi due brani da questo album. Il primo che andiamo a ascoltare, a me me piace tantissimo. E tra l'altro è proprio una composizione che non ha compositore. Quando non c'è il compositore si dice traditional. Quindi folk music. Quindi folk music. Rhiannon Giddens al soundcheck con Black is the Color. I love his love and love it grows until I know that I would burst, and still I feel the strongest thirst. I love my love and he loves me, and to my soul he owns the key. I have his heart and he has mine. I pierce his mouth 10,000 times. Non dimenticate questo nome, Rhiannon Giddens, che recentemente è stata in Italia per presentare questo album splendido intitolato Tomorrow is My Turn. Meravigliosi musicisti e soprattutto, lo ripeto, la produzione attenta di un veterano come T-Bone Burnett. Il nostro Francesco Tromba lo ha detto, eccellente producer di colonne sonore ma anche di artisti importanti, da Leon Russell, Elton John, Elvis Costello, ha avuto a che fare con tutti. Addirittura, tanto per ricordare, ha prodotto la colonna sonora del Grande Lebowski, film questo che ti sarà sicuramente piaciuto, o no? Sì, tantissimo. Allora, che mi dici di Rhiannon Giddens? Ti è piaciuto? Bah, non sembra vero tanto folk. Vabbè, quasi, io te l'ho detto folk, che oggi parliamo della folk music contemporanea, quindi una versione rivisitata, l'evoluzione, no, della musica tradizionale americana. E Rhiannon Giddens, per questo brano che, come dicevo, fa parte della tradizione intitolato Black is the Color, ha realizzato un suo arrangiamento contemporary, quasi con una campionatura un po' hip hop. È vero, quindi non proprio tradizionale. Ma ti è piaciuto o no? Sì, non era male, dai. Allora, però ti voglio convincere anche con il suono, quello originale di Rhiannon Giddens, quindi con tanto di violino, di banjo, di ukulele, di chitarre, quello è il suono. Devi immaginare, ecco, come stare seduto nel tuo portico, davanti alla tua prateria, con la spiga di grano in bocca, una bella camicia a scacchi e naturalmente uno stivale di pelle da spaccatore di legna. E i cavalli che mi aspettano. E i cavalli che ti aspettano. Tu come li monti, a pelo o con la sella? Sì, a pelo. A pelo, figura da calabrese. Allora, Rhiannon Giddens qui al soundcheck, un altro brano da questo album che vi raccomando, Tomorrow is My Turn. Il brano si intitola Shake Sugary. Have a little song, won't take long, sing it right once or twice. Oh Lord and me, didn't I shake sugary? Everything I got is done and gone. Everything I got is done and gone. Soundcheck. Il suono della musica. E questo brano era Each Coming Night, una composizione scritta diversi anni fa da Sam Beam, leader degli Iron and Wine, un'altra band di riferimento per chi ama la folk music americana. Io vedo, mio caro Francesco Tromba, che stai facendo delle smorfie, come se tu stessi soffrendo questa mia scelta artistica oggi. Sì, sono ancora un po' scettico perché, come ti dicevo, il mio rapporto con il folk non è eccezionale, soprattutto ricordo un film che ho visto di recente che parlava appunto della vita di questo artista americano folk, che era un po' noioso, diciamo. Sì, ma come fa a annoiarti la voce di di Becca Stevens con la sua band. Tra l'altro sta uscendo anche il nuovo disco. Questo brano è stato realizzato da questa artista che io adoro, perché ha una vocalità infinita, di una precisione, di un'intonazione che pochi cantanti al mondo hanno. Poi è diplomata in chitarra, suona l'ukulele benissimo, richiestissima anche dalle sue colleghe come Gretchen Parlato. Gretchen Parlato ti piace? Sì, sì. Allora tu immagina che Gretchen Parlato chiama nei suoi dischi Becca Stevens, così come fa Speranza Spalding. Ma già Becca Stevens un già pochettino secondo mi piace. Me Becca Stevens ti piace anche sì. Fisicamente, anche a me devo dire, anche con il suo faccino da ragazza della porta accanto, sempre della provincia americana però Allora da Becca Stevens Band con questa sua versione di It's Coming Night passiamo invece a dei maestri assoluti. Ti sto parlando di musicisti infiniti. Ok, ti sto parlando di una band chiamata Punch Brothers. Conosci? No, ancora no. Senti, tromba, ma tu ti devi fare una cultura. Sul serio non conosci Punch Brothers? No, mi mancano. Beh, hanno diversi album all'attivo, nuova pubblicazione anche per loro, intitolata The Phosphorescent Blues. Il blues fosforescente. Già con un titolo così puoi immaginare che cosa combinano questi signori, che vengono guidati da un talento assoluto, un mandolinista chiamato Chris Thiele. Conosci Chris Thiele? Sì, di nome. Oh, è di nome. Se non sbaglio ha fatto anche una riedizione di Bach, di alcune sonate di Bach. Allora tu puoi immaginare che lui ha rivisitato il quartetto d'archi di Bach soltanto con il suo mandolino, in presa diretta senza sovraincisioni. È uno dei dischi più belli degli ultimi anni. È impossibile immaginare un mandolinista che fa tutto quello che fa Chris Thiele, che è il leader, ripeto, dei Punch Brothers. Tra l'altro Chris Thiele utilizza il mandolino americano, che è diverso dal mandolino napoletano. È vero? Che differenza ovvero, ci sono? Come, che differenza c'è? Il mandolino napoletano ha quella forma bombata, no? Mm-hmm. Che lo appoggi proprio sul ventre, devi essere anche un po' panciuto per tenere su il mandolino, che è uno strumento delicatissimo e leggerissimo. Invece il mandolino americano è piatto. Quindi forse un po' più simile al banjo. Sì, come esatto, insomma, beh, è diverso. Il suono del mandolino, e tra l'altro il mandolino americano è anche facilmente amplificabile perché utilizza dei pick-up, quindi è uno strumento contemporaneo, così come è modernissima la musica dei Punch Brothers, che si rifà al folklore americano, ma attenzione perché il brano che vi faccio ascoltare è complicatissimo. Piacevole all'ascolto, ma arrangiato benissimo, suonato benissimo. Insomma, sono i Punch Brothers al soundcheck di Radio 24. Il brano si intitola Between First and A. I've never dwelled on leaving, only getting somewhere. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Siamo passati al blues arcaico di Valerie June, che è una stella nascente del genere, con una sua composizione intitolata Working Woman Blues dall'album di successo Pushing Against a Stone. Quindi ti vai a scontrare con una pietra durissima quando ascolti la musica e il suono di Valerie June. Beh, sta iniziando a incuriosirmi. Ti sto convincendo, sì. Piano piano. Sì, mi sono piaciuti molto anche i Punch Brothers. Beh, ti credo, perché i Punch Brothers sono musicisti da studiare. Se sei un appassionato di musica, dopo l'ascolto di un disco dei Punch Brothers, non vuoi che studiare e approfondire la conoscenza di questo linguaggio, secondo me, molto interessante per noi, perché noi in Italia non abbiamo questo tipo di cultura. Ci abbiamo una tradizione diversa, forse anche molto sottovalutata, secondo me, la musica popolare italiana. Ora anche, c'è un po' di guarda scoperta. Che prima o poi dedicheremo una puntata al folklore italiano, da Matteo Salvatore a Otello Profazio, per dire un pugliese e un calabrese. Sei contento? Sono contento. Perché no? Allora, da Valerie June, prima di passare invece agli spiritual, perché storci la bocca, scusa? Perché siamo sempre in radio, forse queste... Non è che siamo in radio, siamo su Radio 24, una radio sulla quale si può far ascoltare, si possono far ascoltare certe cose. Facciamo cultura e dobbiamo approfondire la nostra conoscenza per non restare ignoranti, mio caro. Vabbè, sperimentiamo un po'. No, sperimentiamo. Vabbè, andiamo avanti. Allora facciamo gli squilli di tromba, vediamo che concerti ci sono in settimana qui nel nostro paese. Ok, rimanendo sul blues, il venerdì 13 al Big Mama, locale storico di Roma, ci sarà Fabrizio Poggi insieme ai Chic & Mambo. E sempre il 13 a Torino, all'Hiroshima Mon Amour, ci sarà la banda Bordeaux invece. E ancora il 13 all'Auditorium Flog di Firenze si esibiranno gli Asian Dub Foundation. Sì. E sabato prossimo invece ci sarà la band elettronica Alt J al Mediolanum Forum di Assago. Andrai a vederli? No, a Milano non spero non ci vai. Non hai il passaporto firmato per andare a Milano. Al nord, no? Allora ti faccio sentire gli Spiritual nella versione contemporanea di un asso della vocalità di tutti i tempi, e ti sto parlando del nostro amico Bobby McFerrin. Lui mi piace. E lui ti piace, ti credo, album splendido, ha vinto moltissimi premi, album intitolato Spiritual, ovvero Spiritual, album che Bobby McFerrin ha dedicato a suo padre, grande cantante di Spiritual, che viene così celebrato dal vocalist Bobby McFerrin, anche con questa composizione che arriva dalla tradizione degli Spiritual, infatti come vedi non c'è il nome del compositore, e si intitola Glory. Ti piace? Sì. Soundcheck, il suono della musica. Stop this train, I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can, cause now I see I'll never stop this train. E anche se è diventato una pop star, acclamato, celebrato, fidanzato ad alcune stelle di Hollywood, John Mayer in questo brano intitolato Stop This Train ci ricorda quanto è importante la tradizione del folklore della musica americana. Ti è piaciuta questa presentazione? Sì, è John Mayer. John Mayer, certo, un asso della chitarra, meraviglioso cantante, compositore, appassionato di blues, ha suonato con tutti, John Scofield, Herbie Hancock, in concerti importanti. Ha aperto anche il concerto dei Rolling Stone in Italia. Però non dimentica la sua passione per il bluegrass, per il country, per la folk music americana. Sì, purtroppo ancora non ha fatto un tournée in Italia da solista. Speriamo di vederlo presto. Io l'ho anche consigliato qualche tempo fa a Carlo Pagnotta per Umbria Jazz. Per esempio John Mayer a Umbria Jazz ci sarebbe benissimo, anche perché quando fa i concerti negli Stati Uniti si presenta con Pino Palladino al basso elettrico e poi uno dei miei batteristi preferiti, che è Steve Jordan. Bravo, Steve Jordan, campione di funk. Comunque, John Mayer con Stop This Train e siamo agli sgoccioli. Ci sono altri concerti? Sì, magari se ho preso una deriva molto pop, quindi potreste andare a vedere, se avete voglia, Morgan. E ti stai preparando al Festival di Sanremo. Che suonerà martedì 10 al Teatro della Regina Cattolica, l'11 e il 12 al Teatro Pubblico di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna, il 14 al Teatro Storchi di Modena. Che suonerà Morgan? Penso, le sue canzoni. Sì, qualcosa di vecchio. Le sue canzoni, qualcosa di vecchio, perché non ha fatto album recentemente. Non si è espresso. Mi sa che non sei così informato su Morgan. No, sono abbastanza informato. Sai che se lo viene a sapere, quello non ne ha fatti i dischi nuovi di recente. Va bene, salutiamo Morgan in concerto in Italia prossimamente, ma noi dobbiamo chiudere la prima parte, poi ci risentiamo alle 19:15, mio caro Francesco. Eh sì, con cosa chiudiamo? Chiudiamo con un altro asso della chitarra, cantante anche lui infinito, che io ho conosciuto diversi anni fa. Ecco, questo è un altro artista che io consigliai a Carlo Pagnotta, e lì Pagnotta mi diede retta, invitò a Umbria Jazz Raoul Midon, questo dal nuovo album. Questo brano si intitola I Can See 4 Miles. Senti che bellezza. Vi salutiamo con Raoul Midon, ci risentiamo più tardi sempre qui su Radio 24 per la seconda parte del soundcheck di questa domenica. A dopo Francesco. I know you've deceived me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see 4 miles and miles and miles and miles and miles. Wow, Two, hey. Check 1, 2, mic check 1, 2, mic check 1, 2, mic. Microphone check 1, 2. Sound check, il suono della musica. Di DJ Telesforo. Seconda parte del soundcheck, prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gege Telesforo, buonasera a Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Allora, questa mattina noi abbiamo parlato e abbiamo ascoltato un po' di American folk music nella versione però contemporanea, nell'evoluzione. Questa sera invece vorrei ascoltare e fare ascoltare a tutti gli amici in contatto delle belle voci contemporanee del jazz di oggi. E quindi che cosa ci vuoi E quindi fare parliamo di vocalità, parliamo di voci, parliamo in alcuni momenti anche di voce che si fa strumento. Ovvero? Che cosa vuol dire? Ovvero che cosa vuol dire quando la voce non canta un testo scritto, ma emettendo delle sillabe si fa quello che in gergo si chiama lo scat, cioè che in questo caso, per esempio nel caso dell'artista che ascoltiamo adesso, non è una vera e propria improvvisazione vocale sillabando parole senza senso, improvvisando come uno strumento, bensì la signorina Yun Sanna, che è considerata una delle vocalist più interessanti del momento, avendo vinto anche diversi premi in Francia, doppia questa melodia complessa, complicatissima, scritta dal chitarrista Ulf Wakenius, e il brano è bellissimo, si intitola Momento Magico. Scat, di cui era anche appassionato Lucio Dalla, se non sbaglio. Beh sì, Lucio Dalla faceva versi, faceva scat. Io mi sono fatto un bel duetto con lui, che gli amici potranno vedere su YouTube. E questo perché tu sei rimasto ancora alla puntata di ieri con Lucio Dalla e Pino Daniele. Sì, non riesco a levarmela dalla testa. Fai bene. Allora, però andiamo a Yun Sanna. Eccolo qui, questo brano lo abbiamo già ascoltato qui al soundcheck, ma mi sembra doveroso riproporre il talento di questa cantante che sta spopolando in giro per festival jazz nel mondo. Momento Magico al soundcheck. Thank you. Allora, che mi dici di Yun Sanna con il suo momento magico, mio caro Francesco? Mi ha convinto, è molto brava, devo dire. È bravissima, no? Tecnicamente impeccabile, perché per fare queste cose, cantare queste melodie, bisogna essere perfetti, avere l'intonazione, avere il controllo della voce, prendere i fiati al momento giusto, calarsi nell'interpretazione e diventare così fisicamente e vocalmente un vero e proprio strumento, e lei ne ha tutte le qualità. Quindi ci vuole disciplina, allenamento. No, una disciplina pazzesca, bisogna studiare. Francesco, se vuoi fare diventare bravo e diventare un professionista e fare il musicista da grande, una volta potevi soltanto avere il talento, oggi però devi avere il talento di base, ma abnegazione allo studio. Come in tutto, il mondo ormai è diventato praticamente spietato, perché se non sei preparato. Hai visto sei che fuori. Da comunicatore non ti sfugge nulla? Eh sì. Una cantante di riferimento per le giovani interpreti del jazz contemporaneo negli anni è diventata Gretchen Parlato, che ha fatto strada dopo aver vinto una edizione del Thelonious Monk Competition, e oggi, con pochi album al suo attivo in studio e un disco dal vivo, è diventata la cantante di riferimento per le nuove generazioni, perché non ha la voce potente e estesa delle grandi vocalist del passato, ma una vocina delicata, in alcuni momenti nasale, ma perfetta nell'intonazione e nella proposta della voce. Forse anche un che di retro, di vintage nella sua voce. In qualche modo, se non fosse che poi viene affiancata sempre, li sceglie lei i musicisti, dai protagonisti del jazz contemporaneo, fra i quali, che ne so, da Robert Glasper a altri musicisti che stanno facendo la loro carriera in questo momento a New York. Allora, ascoltiamo Gretchen Parlato qui al Soundcheck con How We Love, brano tratto da un album di successo in attesa del prossimo, che arriverà fra qualche mese, intitolato Lost and Found. Soundcheck, il suono della musica. E proprio dall'album Lost and Found di Gretchen Parlato io ho scoperto anche un altro artista, un altro cantante che è diventato uno dei miei preferiti. Ottimo contrabbassista, musicista completo, che viene dal jazz, ha studiato musica classica, si è diplomato, si è laureato in musica, scrive canzoni bellissime come questa Still regalata a Gretchen Parlato, e stiamo parlando di Alan Hampton. Hai riconosciuto che tipo di scansione ritmica ha utilizzato Alan Hampton per questa sua composizione? No. Assolutamente, ma figurati, che volevi riconoscere? Ti faccio notare che la difficoltà di questo brano, tra l'altro su YouTube c'è anche il video della presa diretta della registrazione di questa composizione di Alan Hampton con Gretchen Parlato in studio e Robert Glasper, e pensa a scrivere, soltanto a immaginarlo, un brano che ha le battute di 11 ottavi. Ovvero? Praticamente se non hai questo tipo di abilità e di esperienza, in gergo si dice ti accappotti sulla struttura, ti giri, ti perdi. Ecco. Quindi vai fuori. Vai proprio fuori dalle accuse, mio caro. Alan Hampton ha questa abilità, così come tutti i musicisti e i cantanti contemporanei che si muovono benissimo anche su strutture ritmiche e armoniche molto complesse. È il caso proprio di Gretchen Parlato e Alan Hampton in questa Still. E Alan Hampton oggi è molto richiesto, anche lui sta per farci ascoltare un nuovo album, fra pochissimo arriverà, io l'ho già ordinato. Sei pronto, perché abbiamo, quindi... Sì, perché abbiamo degli amici in comune. Lui è molto amico di Leo Sidran, che è praticamente quasi un, come se fosse un mio nipote, e quindi ho avuto questa informazione e presto riceverò il disco nuovo di Alan Hampton, che qui gustiamo in, una, in un brano tratto invece dal nuovo album del batterista Kendrick Scott. Il brano si intitola Too Much. Alan Hampton al soundcheck. If I was a different man, if I had blood in my eyes, I could've read your heart, I could've read your mind. And now I'm lonely instead, I pick up a fight. So pick up your battering ram. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Days and nights could be. I love the feel of us together. I hope to stay and stay forever. Never can say good. La voce di Sachal Vasandhani, musicista, cantante americano di origine indiana, in Babes Blues, una sua composizione per presentarvi un altro asso della vocalità contemporanea. Credo che abbia più o meno una trentina d'anni, allievo di Kurt Elling, e infatti nel modo di porgere la sua voce risente tutta l'esperienza del suo maestro. Sì, è molto bravo, è convincente proprio in quello che fa. Ecco, e questo è anche un altro cantante che io vorrei in qualche modo coinvolgere in produzioni discografiche, o magari farlo venire in qualche festival qui in Italia, perché credo che piacerebbe anche molto alle ragazze italiane. Sì, ha un prestante, suo, ha il suo fascino, molto elegante, come si propone sul palco, sempre in giacca e cravatta, vecchio stile, e anche la voce ha un timbro tipicamente old school, ma anche lui precisissimo nell'intonazione, e poi molto versatile musicalmente, perché partecipa anche a produzioni contemporanee come quella realizzata dal pianista Gerald Clayton, che ha vinto anche una nomination ai Grammy Award dell'anno scorso. Ma prima di ascoltare Sachal Vasandhani con Gerald Clayton in questa composizione di Gerald Clayton intitolata Dusk Baby, con la quale chiudiamo il nostro soundcheck, vorrei sapere da te se ci sono concerti jazz da vedere nel nostro paese. Sì, allora giovedì 12 ci sarà il trio Bobo al Bravo Caffè di Bologna, sempre a Bologna. Venerdì 13 ci sarà Orlando Julius con i suoi The Heliocentrics al Locomotive ottimo, Club. Ottimo, ottimo. Al Locomotive Club di Bologna. Poi magari se avete anche il tempo e la voglia di viaggiare, parte la tournée europea di D'Angelo. Ecco, io vorrei proprio andare a vedere una data di D'Angelo. Allora chiudiamo, come dicevamo, con la partecipazione di Sachal Vasandhani all'album di successo Life Forum di Gerald Clayton, brano splendido, una poesia intitolato Dusk Baby, e noi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi auguriamo buona serata e buona musica, e buona settimana, una settimana piena di emozioni. Ecco, posso sì, dirlo? Speriamo. Emozioni in musica. Ah, è vero, c'è Sanremo. E allora, come non detto, ci risentiamo. Stavo scherzando, ci risentiamo sabato prossimo con il soundcheck, sempre qui su Radio 24. Un saluto da Giorgio Telesforo e Francesco Tromba. L'ho detto io. Sì, buonasera a tutti. You arrived, a siren for a song. I found your eyes alive with summer light. Love was born at dawn, not quite sun, not quite the moon. So intense at dusk, but daylight comes too soon.